eccoci di nuovo tornati all'angolo del test attitudinale. Posso dire al cuneo del test attitudinale? Al cuneo del test, eccoci arrivati al cuneo del test attitudinale. Diamo le laddove, risposte. Sì, ma diamo anche due punti a chi ci sta ascoltando. Solo se rispondono esattamente. Bravo. Qual era la domanda di oggi? Il buon Herb Kane, giornalista del San Francisco Chronicle, nel 58 coniò il termine per definire la generazione beat. L'ipotesi A presupponeva che il termine fosse beatnik. Era giusta? E sa cosa le dico? Dica. Era proprio quella. Esatta. Beatnik, gioco di parole tra la parola beat, esatto, e il satellite sovietico Sputnik. Pensi come a volte i giornalisti sono così complicati. No, era un ottimo gioco di parole per sottolineare sia la distanza dei beat dalla società corrente, sia il fatto che erano vicini alle idee comuniste, perché lo Sputnik era sovietico in un'epoca in cui gli States vivevano un profondo sentimento di anticomunismo. Beh, questo sempre, che non è mai passato più di tanto, per dire sempre, sì, insomma, se vogliamo essere onesti. Comunque, e allora, se avete risposto B, ovvero capelloni, long hair, avete sbagliato, e così se avete risposto C, Beat Beat Boys, che era proprio, suonava proprio male, Beat Beat Boys. No. Beh, io sono rimasto perplesso perché pensavo fosse un refuso della nostra redazione. Cosa? Fosse un beat di troppo, ma era interessante il movimento dei Beat Beat, aggiungiamo un beat, Beat Beat Beat Beat Boys. Lo coniamo? Dai, inauguriamo. Inaugurato. Stappiamo lo spumante, i Beat Beat Boys. Si festeggia! Boys. Siamo noi, i Beat Beat Boys. Non ci prenderete mai, siamo noi, i Beat Beat Boys. Gentlemen, the Foo Fighters. Voice inside your head, you refuse to hear. I'm the face that you have to face, mirroring your stare. I'm what's left, I'm what's right. I'm the enemy. I'm the man that'll take you down, get you to your knees. So who are you? attenzione, pane, burro e rock and roll. Pretenders, Foo Fighters, ci è scappata la novità stamattina. Me ne assumo la responsabilità, eh? Ho forzato io. Ho voglia così di sentirmi questa The Pretenders. Mancano 20 minuti, anche 24, alle 9 del mattino, ultima tranche di diretta per noi di Pane, Burro e Rock and Roll. Oggi, ragazzi, c'ho una carogna contro la rete. Mi sento solo in questo studio perché ho una redazione composta da incapaci. Oh, posso sgridarvi così di fronte a tutti? È come se fossi solo in questo studio. Guarda, a volte penso anche che Spadino non c'è. Guarda. No, niente, storie di... Cioè, abbiamo una scaletta rigida, fatta, preparata, pronta e non mi trovate le telefonate. Allora mi arrabbio io. Cioè, qui 24.000 sms, rintracciatene uno decente. È una finta, non sto sgridando nessuno. Voglio bene a tutti voi della redazione. Grazie, baci a profusione. No, il problema è questa storia dei calendari. Allora, io sono fortemente convinto che dobbiamo marciarci sopra fino a dicembre. Vedrete, la storia ci darà ragione. Come per il premio Nobel, siamo arrivati prima di tutti, capito? Dobbiamo anticipare l'evento. Questa è la parola d'ordine di Pane, Burro e Rock and Roll. Anticipare l'evento. Abbiamo l'amica Rosy che monitorizza i calendari per i maschietti. Abbiamo l'amico Luca dell'edicola di Campi Bisenzio che monitorizza le donne nude, che però non troviamo al telefono. È questo che mi ha fatto saltare i piani di stamattina. Però io vorrei restare sui calendari, tu cur, c'è anche gli altri. Quindi lancio l'appello, se c'è qualcuno che vuole assumersi la responsabilità di monitorizzare i calendari extra, cioè senza esseri umani nudi in copertina, ma quant'altro, si proponga al 335 100 7777. Noi vi ringrazieremo con, non so, no, trombetta non lo mollo, non so, ci inventeremo qualcosa. Va bene, intanto buon proseguimento di mattina. Ah, dolci, dolci, dolci come lo zucchero nel caffè. Io mi metto a piangere adesso, eh. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. John B. said, see how Abbiamo scoperto qualche giorno fa come in realtà il nostro buon Roberto Fricantoni, forse per arrotondare un po' lo stipendio degli artisti, che non è mai... Assolutamente, assolutamente, allora, solo per l'arte. Lo fa per solo l'arte. Per l'arte. Ha istituito... E anche un po' per i soldi, come direbbe il grande Mario. Esatto, un corso per diventare come Roberto Fricantoni. L'altro giorno abbiamo scoperto che c'era già un primo... Un primo fan, forse, esatto, esagerato, disposto a pagare già le prime rate. Spadino mi dice che la redazione è riuscito a raccattarne un altro, sempre a Genova, però mi sembra che è la stessa città. Pronto? Chi pronto? Sei? Pronto? Pronto chi sì. sei? Sì, sono Gian. Ah Gian, ma sei lo stesso dell'altra volta. Ma è una classe a numero chiuso. Ah, questo credo sia una cosa che immagini tu, ma l'obiettivo del corso non penso fosse a numero chiuso. Gian ha assolutamente ragione. Ce ne sono altri, Fricco no. Beh, diversi, ma ognuno ha le sue peculiarità. Vabbè, è comunque un piacere risentirti, caro Gian. Tu sei soddisfatto di questo corso per diventare come Fricantoni? Ho il portafoglio sempre più vuoto, ma il cuore sempre più pieno. Oh, la felicità. Non avrei saputo dirla meglio. Complimenti, Gian. Tu, possiamo darci del tu? Devi, tranquillo, devi. Maestro, le do del tu se vuoi. Ma io le darei anche del te all'occasione. La una perla buttata lì così, la una simpatia. Perla buttata lì così. Gianna, questa è offerta da Rock FM, tranquillo, tranquillo, fantastico. Sì. Diamo un po' di sostanza a questo corso, vogliamo insegnare qualcosa al ragazzo così in diretta, magari anche qualcun altro volesse poi partecipare al ma corso. Ma sì, sì, alcune massime, non so, dicevamo... abbiamo già detto campagna contro la droga, città favorevolissima. Credo di sì. Sì, però bisogna aggiungere che non va equivocata. Non va equivocata perché noi ci rendiamo perfettamente conto. Sì. Io e me stesso, certo. Parlo al plurale, sì. In veste di plurale maestatis. Dicevo, noi ci rendiamo perfettamente conto di quanta tragedia, di quanto dolore si porti, certo. Il problema droga, ce n'è sempre meno e costa troppo. No. Questo andava detto. Il solito Roberto Fricca. Sto scherzando. Senti, naturalmente, per sdrammatizzare un dramma vero. Gian, ecco. Per diventare come Fricantoni, te la senti di controbattere? Assolutamente, anzi. È pronto. Mi riferisco proprio al maestro Frick. Prego, grazie. Vai, sono vai, tutto Gian. Orecchi. Allora, è provvisto di carta e penna? Sì. Bene, allora disegni un quadrato. Aia, sì, disegnato un quadrato, sì. Fatto. Ok, accanto ad ogni linea adesso sì. Disegni un equino, anche stilizzato, ma un equino. Un cavallo. Sì, un cavallo. Un equino. Okay, sì, non si arrabbi, Gian, da Genova, gentilmente. Sto disegnando alla buona, maestro. Ecco, l'abbiamo fatto, sì. Benissimo, avete disegnato sì. Una figura mitologica, ragazzi, il cavallo alato. Il cavallo, cavallo alato. Complimenti! Il ragazzo è pronto per diventare come lei. Sempre eh? Meglio, sempre meglio. Ma Gian, guarda, è un doppio carpiato. Io direi che i soldi che stai spendendo per diventare come Fricantoni li stai investendo bene. A presto! Grazie a voi. Gian, ho già timbrato la sua scheda. Io mi chiedo sempre, Frick, se lei è contento di far pagare la gente per farla diventare come lei. Ma certo, voglio dire, tutti hanno il diritto di diventare come Frick. Per me è una missione. I'll be The Flame, i Cheap Trick, 10 minuti al termine. Ragazzi, mi sa che ce la facciamo anche quest'oggi, ormai è ufficiale, l'inizio era stato duro, ma fino alla fine potremmo arrivarci anche questa mano. E poi vi lasceremo, come ogni giorno, nelle mani di Marco Garavelli. Sarebbe divertentissimo riuscire a spiegarvi esattamente cosa succede mentre ascoltate i brani, cosa succede nel dietro le quinte quando l'on air è spento. Dopo che ho sgridato la redazione sono scattate migliaia di telefonate per un vano tentativo di parlare anche quest'oggi di calendario, è andato a vuoto. Però posso segnalarvi che per un pelo non abbiamo rintracciato qualcuno che ci descrivesse il calendario di Padre Pio. Lo so, ragazzi, che a volte mi fisso su delle cose, ma secondo me questa cosa del calendario va fatta perché è nazional popolare, perché noi in maniera rock possiamo fare tutto quello che vogliamo. Questo è il faro, l'obiettivo di Pane, Burro e Rock and Roll. Resistiamo. Intanto Rosy, l'amica che monitorizza i calendari per maschi, è veramente preparatissima, mi ha mandato una mail precisissima, quindi Rosy, appuntamento a domani, mi raccomando. E io lancio l'appello, ragazzi, come stiamo facendo con il patentato 147 che monitorizza le altre radio, come facciamo con Rosy, come facciamo con Luca che non si fa trovare ma che dovrebbe descrivere i calendari anche lui. Ognuno di voi pensateci ogni tanto. Voi, attenzione, citerò, non dovete pensare cosa Rock FM deve fare per voi. Anzi, cambio. Voi non dovete pensare cosa Pane, Burro e Rock and Roll deve fare per voi, ma cosa voi potete fare per Pane, Burro e Rock and Roll. Che ognuno si prenda le proprie responsabilità. E andiamo avanti. Devo fare un favore al patentato che ci aveva tempo fa segnalato le patenti davvero rocker false, e quindi glielo devo. Mi chiede un messaggio da registrare, così poi lui se lo scarica in podcast e se lo risente. Però devo ribeccare l'SMS, eh? Ariel, sei un genio. Quello, vabbè, la leggo dopo, magari. Era vera, però non me la sono inventata. Dov'è l'SMS del 110? Che piscuano che sono. Ok, andiamo con la musica. Te lo faccio tra pochissimo, eh? Così poi vi scaricate il podcast e ve lo potete tenere. È dura, oggi è durissima, ma ce la possiamo fare. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without says you are what you eat well. Old man says you are what you wear well. Well, you know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves. Dance, follow on, to the play of life. There's a fat old lady outside the saloon, laying out the credit card she plays for tune. The deck is uneven right from the start, and all of their hands are playing the part. Captain Leeds is down front on the night. Join the dance, follow the round table, pop it down. We go, you're the show, off we go. Play the hot pot, I'll be the fool. We'll tease the fool, baby, round and round. Progressiva quella di quest'oggi, affidata ai Genesis, i Dancing with the Moonlight Night, ovviamente da Selling England by the Pound. Ci siamo, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati fino alla fine. Questa è la fine. Cara Alba, che ci scrivi, passo ogni giorno da Vittor Pisani, sbircio, da che parte devo sbirciare per vedere Rock FM? Allora, guardando la stazione centrale, tu devi stare, devi guardare a sinistra e siamo attaccati a Piazza della Repubblica, ok? Noi siamo sempre al buio, quindi non ci vedi, cioè sì, un po' puoi intravederci. Questo vale anche per tutti coloro che nelle prossime mattine vorranno venire a fare jogging qua sotto per sostituire l'omino che fa jogging, che ormai non c'è più. Sono le 8.59, sigla! Una strombazzata doverosissima per Caterina! Deve essere operata da Mammo, ce lo segnala. Giovane fuori, devastata dentro. Burro e rock and roll. Siamo con te. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Ho ritrovato il messaggio patentato 110, eh? Adesso te lo dico in bianco. Stai lì. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene, perché fa bene. Allora, lo faccio con intonazione giusta, 110, eh? Sono le 5:20. Sveglia, babbione, alzati e vai a lavorare, Lazzarone. Perché lui poi si scarica il podcast, perché siete avanti tecnologicamente, prende lo spezzetto e se lo mette come sveglia. È andata, ragazzi, ci si risente domani dalle 7 alle 9. Permettetemi di sgridare un radioascoltatore che commenta i nostri topolini cavie, i nostri nuovi opinionisti, Rogna e Frigo. Si firma Ste e mi commenta: la cosa che fa schifo è che ci siano animali costretti a subire torture nei laboratori. Non scherzate su queste cose. Grazie, support di Animal Liberation Front. Firmato Ste. L'ho sperimentato sulla mia pelle da quando ho iniziato a parlare. L'ironia spesso e volentieri non si capisce. Ma caro Ste, ti dico questa cosa. Secondo te, a volte, non è meglio scherzarci sopra piuttosto che non dire proprio nulla? Ci sentiamo domani. Vi lascio con Rogna e Frigo. Ehi, Rogna, guarda là! No! Stanno portando via Gino, pancia gonfia! Alla fine ha ceduto, lo sapevo. Sono 3 settimane che sperimentano Imodium su di lui. Ha tenuto tutto dentro di lui, ma alla fine non ce l'ha fatta. È esploso! No! Peccato, era un gran topo, una grande cavia, un lottatore. Lui sì, che ci sarebbe servito per conquistare gli umani. anche se nell'ultimo periodo le sue flatulenze erano diventate proprio pestilenziali. Maledetti, la pagherete, un altro topo innocente lo avrete sulla vostra coscienza! Maledetti umani!